2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate su Twitter, Facebook oppure la nostra posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, questa sera ci sono tantissimi argomenti, quindi iniziamo subito con le nostre notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. La prima notizia riguarda gli automobilisti, o comunque i proprietari di automobili, perché dal 5 ottobre il certificato di proprietà di un autoveicolo diventerà digitale. Sarà conservato nei database dell'ACI, che gestisce il PRAI, il pubblico registro automobilistico, e con apposite password e user si entra nella propria area per vedere il certificato di proprietà. In questo modo, tra i tanti vantaggi, anche la falsificazione, che dovrebbe azzerarsi con questa modalità digitale. Digital News. Apple ha annunciato vendite record per i nuovi iPhone 6S e 6S Plus, 13 milioni di telefoni in 3 giorni. È stata comunicata anche la data di arrivo sul mercato italiano di questi nuovi telefoni, sarà il 9 ottobre, quindi la prossima settimana. Nel frattempo Google ha lanciato il nuovo Nexus 6P con caratteristiche da top di gamma, sarà prodotto da Huawei. Ricordiamo che il Nexus 6P è il primo ad utilizzare il nuovo Android Marshmallow, che è il nuovo sistema operativo di Android. Digital News. La Lega Nazionale Pallacanestro, che organizza i campionati di basket di A2, B e C, ha lanciato un'offerta solo web per vedere le dirette di tutte le partite della serie A2. Ci sono 2 abbonamenti, 10 euro al mese oppure 50 euro per tutta la stagione. Il primo mese sarà gratis. È un esempio interessante, un altro esempio di un proprietario di contenuti che disintermedia e grazie al web arriva direttamente al consumatore. Molto probabilmente sono poche le grandi piattaforme interessate ai diritti della A2, ma vale sempre la regola della coda lunga di internet, tante nicchie di mercato, e il web avvicina i consumatori a queste nicchie di mercato. Tra le 1000 offerte commerciali in ambito TV e internet, da segnalare quella appena lanciata da TIM e Mediaset, si chiama TIM Premium Online, che combina la DSL con i contenuti appunto di Premium Online. Oggi si fa streaming di tutto, di musica e video soprattutto, ma anche di videogiochi. Nvidia ha lanciato il servizio di gaming in streaming, si chiama GeForce Now, permette di giocare a giochi per PC in streaming su dispositivi Nvidia Shield. È gratis per i primi 3 mesi, poi 10 euro al mese. Comunque una novità interessante, pronto perché va in questa direzione, cioè dello streaming anche per i videogiochi. Però le nuove regole che potrebbero abbattere il roaming in Europa dal 2017 hanno superato il vaglio del Consiglio Competitività dell'Unione Europea ed ora sono pronte per il voto del Parlamento Europeo. Ricordiamo che ci saranno dei limiti per evitare abusi o per evitare che uno compri una SIM in Estonia e chiami ad esempio in Italia, cioè la utilizzi normalmente in Italia. Insomma, per questo motivo ci saranno sicuramente dei limiti. Adesso ci occupiamo di security, di sicurezza informatica. Questo è un dramma in molti settori. Allora, secondo il rapporto del CLUSIT, il CLUSIT è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, è stato presentato questa settimana, è un aggiornamento di un rapporto che ogni anno descrive l'andamento di questo settore molto importante, quello della sicurezza informatica. Allora, secondo il nuovo rapporto, che è uscito appunto questa settimana, il cybercrime è in crescita del 30% nei primi 6 mesi del 2015. Allora, tra i problemi che possono accadere nel mondo digitale non c'è solo il crimine informatico, il crimine digitale, però, secondo questo rapporto, il crimine informatico rappresenta il 66% degli incidenti informatici dichiarati nella prima metà di quest'anno. Quindi è sicuramente una delle aree da tenere sotto osservazione, e comunque uno si deve difendere, e che sia un attacco criminale o che sia un attacco di altro tipo, spionaggio industriale, attivismo digitale online, insomma uno dovrebbe difendersi. Alessio Pennasilico è membro del Comitato Tecnico Scientifico del CLUSIC, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Bentornato. Grazie. Partiamo da alcuni dati generali che ci raccontano come stanno andando le cose a proposito di cybercrime, di attacchi informatici sui sistemi in Italia. Purtroppo le notizie non sono molto positive, si confermano i trend che rileviamo da anni, vale a dire che il numero di attacchi è in aumento, tra tutti i tentativi di attacco sono in aumento quelli che vanno a buon fine, ma il dato più preoccupante è evidentemente che ogni volta che un attacco va a buon fine, chi subisce quell'attacco perde sempre più denaro, quindi subire un'intrusione oggi è molto più costoso che non aver subito un'intrusione 3 o 4 anni fa. Quando parliamo di perdita di denaro, parliamo in alcuni casi, immagino, di perdita di denaro vera e propria, perché alcuni attacchi puntano proprio a estorcere denaro dalle aziende o anche dai singoli cittadini, o addirittura puntano a rubarlo da banche, da altri sistemi finanziari. Però c'è anche un altro modo per valutare la perdita di denaro. Ma fondamentalmente sì, i tre vettori attraverso cui si perde il denaro sono il furto, la frode, quindi appunto dal ti chiedo un riscatto e quindi versi del denaro a tutte quelle truffe a cui assistiamo ora, del dirotto bonifici o prelevo soldi da conti correnti e carte di credito, quindi questo è sicuramente un costo diretto. Poi ci sono i costi che vengono sostenuti per ripristinare la situazione, per ripristinare la sicurezza, per gestire l'emergenza. E poi ci sono i costi in termini di danno, quindi da ordini persi, merce non consegnata, danno d'immagine, clienti persi di nuovo. Quindi sono tre i fronti attraverso i quali l'azienda subisce una perdita di denaro. Va detto che il rapporto CLUSIT viene costruito su dati noti, un po' come dire, sulle denunce che vengono effettuate dei furti. Poi naturalmente in ambito informatico non stiamo parlando solo di denunce, ci sono anche casi noti che vengono diffusi anche tra a livello scientifico. Quindi tutte le stime che facciamo sono sicuramente per difetto. Assolutamente, e per difetto molto importante. Alcuni casi finiscono sulle prime pagine dei quotidiani per la loro importanza, si pensi ai casi Sony, Ashley Madison, Target, JP Morgan. Altri invece, grazie alla nostra collaborazione anche con le forze di polizia, sono informazioni che recepiamo grazie appunto alle denunce fatte, ma immaginandolo in un paese come l'Italia, dove il 95% del mercato è fatto da piccole imprese che mediamente non denunciano le intrusioni, abbiamo una enorme fetta di attacchi che non vengono in nessun modo rilevati o categorizzati, quindi ben più che per difetto quei numeri. Secondo voi, anche parlando tra addetti ai lavori, questa settimana c'è stato il Security Summit a Verona, una delle tappe del Security Summit, quello che si respira è che le aziende si stanno accorgendo, parlo soprattutto delle aziende dove c'è un valore più elevato rispetto alle case dei singoli cittadini, ai computer dei singoli cittadini, però la consapevolezza di tutto ciò sta aumentando o facciamo fatica? Beh, frutto appunto di questi trend di attacchi sempre più frequenti, poco, ma non solo aumenta la consapevolezza, ma anche il tentativo di occuparsi del problema. Questo è un dato che vediamo da alcuni indicatori, quali il numero di persone che frequentano eventi come il Security Summit, che è un pubblico in continua crescita, e contemporaneamente da dati che escono anche da Confindustria, che dicono che è uno dei comparti dove ancora c'è un pochino di crescita, c'è un più davanti a differenza di altri comparti che hanno un meno e poi due cifre. Quindi da un certo punto di vista questa è una, beh, oltre che una buona notizia per chi opera nel settore, perché c'è business, però visto che stiamo parlando di sicurezza, c'è una tendenza insomma a occuparsi della cosa, che è positivo. Sì. Sì, una delle cose che a me preoccupa moltissimo in termini di percezione del problema è che spesso la notizia che esce è quella grande multinazionale ha subito un attacco e gli hanno rubato delle informazioni. Quello a volte che non viene percepito è che le informazioni che hanno rubato a quella multinazionale in realtà sono informazioni che riguardano noi. I dati usciti da Ashley Madison riguardano privati cittadini, non erano dati di Ashley Madison. Sì, esattamente. Bene, torneremo presto a occuparci di security, di sicurezza. Grazie ad Alessio Pennasilico. A presto, buon lavoro. Grazie. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, il programma di tecnologia di Radio 24. Ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco, parleremo di Netflix, che ha annunciato l'arrivo in Italia poco oltre la metà del mese di ottobre, e poi parleremo del software all'interno delle automobili. Qual è il ruolo del software all'interno delle automobili? Diventa sempre più importante. A proposito di automobili, parleremo anche di BlaBlaCar. Questo tra poco a 2024. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Vi ricordo che domenica alle 13.30 invece della nostra replica consueta con parte della nostra puntata del venerdì sera saremo in diretta dal Salone Nautico di Genova, quindi veniteci a trovare nel nostro studio all'interno del Salone Nautico a Genova. Adesso parliamo di Netflix, che ha annunciato l'arrivo in Italia da giovedì 22 ottobre. Ci saranno tre tagli di abbonamento, 8 euro al mese per una sola connessione, un solo stream, e definizione standard, quindi insomma mica tanto appetitoso. Invece con 10 euro ci si può abbonare ad un piano con due sessioni di streaming contemporanee, quindi uno lo può guardare in salotto, l'altro in cucina, e ci sarà l'alta definizione. Poi per 12 euro 4 sessioni di stream e 4 streaming contemporanei e definizione fino al 4K, però solo per i contenuti che sono creati in 4K, generalmente alta definizione. Allora, abbiamo parlato con Joris Evers, che è vicepresidente di Netflix, del futuro della TV. Come vedono loro la trasformazione del mondo della TV? From a technology perspective, you know, the future of TV, the way we see the future of TV is internet TV, right? Dal punto di vista tecnologico, il futuro della TV è la TV via internet. Sapete che internet si sta espandendo e sta cambiando molte cose che riguardano il modo in cui viviamo. Oggi per i servizi bancari usiamo internet. Facciamo acquisti via internet. Quando prenoti un viaggio lo fai online. Molte persone imparano su internet all'università. La TV tradizionale è rimasta la stessa per gli ultimi 60 anni ed è arrivata nelle nostre case allo stesso modo della serie «È giovedì sera, sono le 8 e questo è quello che c'è su questi canali». E così è stato per tutti questi 60 anni. And it's basically been the same for that, you know, 60-year period. And we think it's time that that changes and the internet actually can change that. Noi pensiamo che sia arrivato il momento che questo cambi e internet può cambiare tutto ciò. Può mettere il telespettatore in condizione di decidere come passare il tempo davanti allo schermo. Tu devi decidere quando vedere un nuovo episodio, ad esempio, di Bloodline. E questo è quello che internet sta rendendo possibile non solo attraverso Netflix, ma anche per tutti gli altri broadcaster lineari, e noi ci aspettiamo che nei prossimi 10 15 anni passino tutti all'online. We expect that over the next 10 to 15 years they'll all be moving, you know, online. E questo è un parere, una posizione che è abbastanza diffusa nel mondo degli operatori televisivi, anche quelli tradizionali sono consapevoli di questa trasformazione. Il problema è che se player come Netflix, ma anche le altre proposte che ci sono sul mercato italiano, da Infinity a Chili a Premium Online, eccetera, eccetera, si fanno spazio nel mercato, naturalmente poi bisognerà capire quale spazio ci sarà per i broadcaster tradizionali. Abbiamo chiesto a Joris Evers se ci sono dei problemi di banda larga nel nostro paese per vedere Netflix, perché naturalmente se così fosse il mercato è un mercato abbastanza ristretto. Fondamentalmente se siete in grado di vedere un video di YouTube siete in grado di vedere Netflix e funziona meglio di YouTube. So if you have a, you know, couple of megabits per second you can watch Netflix and it will look really good on your screen. Se avete una connessione a 2 megabit si vede molto bene perché usiamo un sistema che si adatta alla velocità della connessione. Facciamo un test quando inizi a vedere il contenuto, ci adattiamo alla massima massima velocità possibile e continuiamo costantemente a controllare la qualità della connessione. We also have every title encoded in more than 100 different ways. Abbiamo anche codificato tutti i nostri titoli in più di 100 diversi formati in modo da offrirti quello migliore per la tua connessione o il tuo terminale. E possiamo passare da un formato ad un altro senza che tu te ne accorga. Seamlessly without you ever noticing it. Questa è una domanda che inseriamo solo nella nostra versione podcast per i nostri ascoltatori più fedeli e magari anche un po' più esperti, perché sennò poi mi dicono che faccio le cose per addetti ai lavori. Allora, una domanda sul Content Delivery Network, che è una cosa molto importante quando si distribuiscono contenuti di tutti i generi, che sia audio, che siano contenuti testuali, fotografie, ma ovviamente ancor più importante quando si parla di video. Che cos'è il Content Delivery Network? È una rete di server sostanzialmente che serve per spingere questi contenuti in tutta la rete internet, nelle estremità della rete internet, e di fatto avvicinare questi contenuti all'utente. Così quando un utente clicca su un video e vuole vedere un video, no, quel video non arriva magari dagli Stati Uniti o dal Giappone o dall'Australia, arriva da un server, da macchine che sono molto vicine alla rete. Così si evitano, insomma, tempi di latenza, problemi di vari nodi della rete internet. Il più grande player e operatore in questo settore è Akamai, ma le grandi aziende in qualche modo si sono costruite il proprio network. Allora, che cosa fa Netflix per spingere questi contenuti e fare in modo che arrivino in modo più fluido al consumatore finale? We use our own content delivery network. Usiamo un nostro network per distribuire contenuti che si chiama Netflix Open Connect. Netflix Open Connect. And we go and talk to all internet service providers. E andiamo a parlare con tutte le società di telecomunicazioni che offrono connettività a banda larga, anche in Italia, per offrirgli una connessione al nostro network. In questo modo, quando fai streaming di un video su Netflix, quello arriva dal punto più vicino possibile ed è per quello che funziona molto bene. Adesso ci interroghiamo e cerchiamo di capire qual è il ruolo che oggi ha il software nelle automobili, nei veicoli in generale, ma in modo particolare sulle automobili. È un tema di cui si sta parlando dopo il caso Volkswagen, perché sostanzialmente tutto veniva truccato grazie ad un software. Allora, qual è il ruolo che oggi ricopre un programma informatico? Quanto è diffusa l'informatica all'interno di un'automobile? Saluto Emanuele Cavalli, che è direttore tecnico e cofondatore di Texa, che è tra i leader mondiali nella progettazione e costruzione di strumenti diagnostici per auto. Benvenuto a 2024. Grazie. Beh, inizierei dicendo due parole su Texa, perché voi siete una realtà italiana, un'azienda italiana estremamente interessante in un mercato globale molto competitivo, ma siete di fatto uno dei due grandi leader in questo settore. Che cosa fate? Allora, Texa in realtà sviluppa, produce strumentazione elettronica per la diagnosi in campo automobilistico, in più generale nel settore dell'auto, delle moto, dei veicoli industriali, agricoli, nautici. Ah, perché non dobbiamo dimenticarci che anche i trattori, anche gli yacht. Assolutamente sì. Ah. Ormai il motore endotermico non è più un elemento meccanico, ma ha un'anima elettronica che lo governa. E quindi noi sviluppiamo gli strumenti che gli operatori del settore utilizzano per la manutenzione di questi sistemi. E lo fate in tutto il mondo? Lo facciamo in tutto il mondo, lo facciamo per tutte le marche e per tutti i modelli di quei veicoli che elencavo prima. Quindi conoscete molto bene il software a bordo dei veicoli. Sì, abbiamo una certa idea della complessità e della varietà di sistemi che prevede. Oggi un'automobile, adesso usiamo l'esempio delle automobili, però appunto potremmo usare il camion, il trattore oppure altro tipo di macchina agricola, una barca, eccetera, eccetera. Non può esistere un motore che non abbia software. Assolutamente, è vero, è così. L'elettronica oggi risolve e controlla tutte le parti meccaniche di funzionamento del motore, l'alimentazione, le prestazioni, i consumi, e questo è gestito dall'elettronica, nel senso da computer che hanno un programma, che eseguono un programma attraverso il quale il motore viene mantenuto all'interno di certi parametri e di certe modalità di funzionamento. Ma questo vale per i motori, per i sistemi d'aria condizionata, per i sistemi di sicurezza, ah, ABS, certo, airbag. Certo, io ho detto solo motore, in realtà poi c'è tutta una serie di altre cose. Esiste un computer che governa tutto o ci sono più computer che poi vengono normalmente chiamati le centraline elettroniche di vecchia memoria? Diciamo, ecco, forse per essere più chiaro potrei azzardare questo esempio. L'auto oggi è una sorta di piccola rete informatica, una sorta di piccola internet dove ogni nodo è una centralina che sviluppa e controlla e governa una funzione particolare. Quindi c'è la centralina che controlla il motore, la centralina che controlla le porte, le luci, l'aria condizionata, il sistema audio. Quindi ogni nodo ha una sua funzione. Ci sono delle centraline, diciamo, che in una certa misura raccolgono un certo numero di informazioni perché le attuano. Significa che i comandi che vengono sviluppati e definiti dal software poi vengono resi attuali e attuati attraverso questi sistemi elettronici. Sono un po' più importanti magari queste, sì, centraline. E quante sono queste centraline? Ah, sono decine di centraline. Ci sono macchine, pazzesco, che hanno 90 sistemi elettronici. Quando si dice sistema elettronico si intende una centralina per ogni sistema governato. Pazzesco, decine. Pensa un po'. E tutti questi sistemi sono connessi in rete. Uh-huh. Quindi condividono e scambiano informazioni in tempo reale in maniera molto rapida ed efficace, e in questo modo si è riusciti a ridurre la complessità dell'auto, perché, per fare un esempio, esiste un solo sensore di temperatura per il motore e tutti i sistemi che hanno bisogno di quell'informazione accedono e leggono quell'informazione condivisa in rete. Sì, sì, certo. Questi sono sistemi sicuri, perché sostanzialmente non succede. C'era anche una battuta, non ricordo se di un dirigente della Ford: non capita che io debba fermare la macchina e riaccendere per, oddio, forse ogni tanto può capitare, però sono sistemi sostanzialmente affidabili. Sì, assolutamente. La qualità e gli standard applicati ai sistemi automotive sono molto, molto spinti. Ci possono essere delle situazioni magari critiche generate dalla batteria dell'auto che ha una tensione troppo bassa, no? Allora ecco che, come qualsiasi computer, va in tilt. Questo software e anche il linguaggio con cui si scambiano le informazioni all'interno dell'automobile sono standard, o ogni produttore ha il proprio linguaggio? E quindi, perché poi parleremo anche di come si può modificare e anche eventualmente che tipo di software può essere creato per cambiare, personalizzare l'automobile. Allora, il software nell'auto ha più livelli, più strati, diciamo. Sì. C'è uno strato standard al quale si accede attraverso il connettore OBD, che è quella presa che come l'USB del computer nella, esatto, macchina, c'è, cioè, l'OBD. Esatto, una presa che ogni tanto si vede, si scopre abbassandosi sotto la pedaliera. Questo connettore ha la possibilità di consentire il dialogo con l'auto. Dicevo, c'è uno strato standard che è quello che viene utilizzato per controllare i sistemi di antinquinamento, sì, e poi c'è lo strato invece più sofisticato, che è quello che viene usato dalle officine per entrare in dialogo con i sistemi elettronici e per eseguire tutte quelle funzioni che sono previste per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Quando si cambia l'olio oggi, si agisce meccanicamente cambiando l'olio, ma poi bisogna chiudere, completare l'operazione resettando una serie di parametri all'interno della centralina del motore. Okay. E poi c'è lo strato ancora più basso, che è quello che è di competenza del costruttore del sistema stesso. Faccio per esempio l'esempio della centralina airbag, che ha uno strato ancora più profondo, che registra l'evento incidente quando ora, sì, questo accada. E questi software quindi sono proprietari? Sono assolutamente proprietari del costruttore del veicolo. Perché esiste un mercato che probabilmente è illegale per modificare questi parametri, giusto? Sì, beh, insomma, basta aprire una pagina di internet, dove c'è il software, c'è qualcuno, dove c'è, che... esatto, dove c'è. Poi ci sono vari livelli, insomma, perché ci sono delle realtà che producono delle varie, dei software modificati per scopi sportivi, quindi certo. Si agisce su un modello standard per portarlo a prestazioni diverse, perché lo scopo è quello di utilizzarlo in pista. Sì. Adesso ci fermiamo per alcuni minuti, c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, poi continueremo a parlare del software, che cosa si può fare col software a bordo di un autoveicolo, di un'automobile. A tra poco. 2024. Ormai con il software si fanno quasi tutte le cose, comunque buona parte delle cose che succedono nella nostra vita sono governate dal software. E allora, qual è il ruolo del software nelle automobili? Abbiamo sentito che si fa quasi tutto con il software, l'automobile è un network pieno di elettronica, ma vorrei capire con Emanuele Cavalli, che è il direttore tecnico ed è uno dei fondatori di Texa, T-E-X-A, si scrive così questa società italiana, leader nella progettazione e costruzione di strumenti diagnostici per le automobili. Allora, Cavalli, che cosa si può fare oggi con il software? Cioè, agendo sul software, che cosa può succedere all'interno di un autoveicolo, lecitamente o illecitamente? Perché sappiamo che dove c'è il software si può agire anche hackerando il sistema, però anche lecitamente molte cose le case automobilistiche ce le lasciano fare, e probabilmente saranno sempre di più le cose che ci lasciano fare sfruttando proprio la flessibilità del software. Beh, diciamo che la filosofia della configurazione dell'auto è una filosofia sdoganata, nel senso che oggi c'è la possibilità di modificare le funzioni base del veicolo anche da parte dell'automobilista. Faccio l'esempio, non so, di definire a che altezza deve aprirsi lo sportellone del vano bagagli, perché abbiamo un garage più basso di quello standard normale, quindi posso definire a che altezza si fermerà l'apertura del portellone, oppure definire se le luci diurne devono rimanere sempre accese oppure no. E queste sono funzioni che nei menu di servizio dell'auto l'automobilista può utilizzare per impostarle in maniera adeguata alle sue, cioè, esigenze. E questo aumenterà sia in tutte le automobili, perché su questi esempi magari nelle utilitarie di basso costo non sono ancora disponibili, o comunque non in tutte, però aumenterà sempre di, certo, più. Perché queste funzionalità, queste, diciamo, configurazioni diventeranno d'uso comune, perché l'elettronica di base è la lo stessa. Lo permette, certo, esatto. Certo. E quindi, poi che cos'altro si potrebbe fare? Sul motore? Ah beh, sul motore ci sono, come dicevo prima, delle opportunità di modificare legalmente o illegalmente la potenza del motore stesso, perché oggi cambiare la potenza del motore è una cosa che... Gioco da ragazzi? Essere... No, non è così semplice, perché i costruttori hanno utilizzato tecniche di protezione abbastanza spinte, ma contemporaneamente è cresciuta anche la competenza dei meccanici, meccatronici o di quelle realtà che fanno questo tipo di interventi, e quindi basta aumentare la pressione della turbina, aumentare la quantità di gasolio, di benzina, e il motore... Quindi fino a qualche anno fa, per truccare un motore bisognava agire meccanicamente, oggi bisogna usare il software. Oggi si usano i software, sì. Possiamo immaginare che nei prossimi anni, oggi non mi pare che sia comune, che nei prossimi anni anche l'automobile diventi una sorta di smartphone, dove magari io mi scarico un'app per fare certe cose, chiaramente consentite dal produttore, per personalizzare ulteriormente la mia automobile. Certo, infatti la lettura, diciamo, corretta di questi potenziali nasce proprio dalla possibilità di sfruttare lo smartphone, che ormai è la nostra interfaccia verso il mondo che ci circonda, sì. E fare in modo che attraverso il telefono io possa avere il controllo del veicolo. Quest'anno alla fiera Autopromotec, che è del nostro settore, abbiamo presentato proprio un dispositivo Care, che consente di dialogare con l'auto, quindi attraverso lo smartphone l'automobilista può avere informazioni dall'auto e può trasferire informazioni all'officina che lo segue. Quindi abbiamo creato un nuovo canale di comunicazione tra l'auto, l'automobilista e l'officina. Questo per risolvere tutta una serie di cose interessanti, dalla sicurezza, quindi in caso di incidente c'è la capacità del nostro dispositivo di rilevare l'incidente e di scatenare una serie di attività che risolvono questa situazione, sì, o quella di ricordare all'automobilista tutte le scadenze dell'auto, la eventuali situazioni critiche che l'auto presenta, perché noi andiamo a leggerle direttamente dai sistemi, sì, che ci avvisano. È una sorta di della e-call. Sappiamo che tra qualche anno l'Unione Europea obbligherà tutti i produttori a inserire una serie di sensori, sì, che automaticamente avvisano il soccorso in caso di incidente, ad esempio. Esattamente, questo è proprio propedeutico a mentalizzarsi, abituarsi, sì, al fatto che in caso di incidente ci sia qualche cosa che ci aiuta a superare questa situazione che alle volte... Questa scatoletta si può comprare e si può installare? Sì, l'abbiamo presentata alla Fiera di Bologna a maggio e sarà in vendita qui entro la fine dell'anno. Ah, quindi e io riesco ad accedere a dati che il produttore dell'auto non mi mette a disposizione. Che il produttore dell'auto non mette a disposizione sul quadro strumenti dell'auto, sì, cioè non sono, sì, normalmente accedibili. Attraverso questo dispositivo invece sullo smartphone appaiono tutta una serie di funzioni, anche diciamo in maniera più amichevole, più facile da utilizzare, no? Perché, sì, alle, sì, volte il quadro strumenti ti dice c'è la scadenza del tagliando, ma nessuno lo legge o non è così evidente e così facilmente leggibile come quello che noi siamo abituati a vedere in un'app con una particolare, sì, icona, sì, colorata che ci ricorda la scadenza. Allora, nel mondo, sempre per utilizzare questo paragone, nel mondo degli smartphone o dei computer, l'aggiornamento del software è una cosa normale, anzi è a volte è una scocciatura, perché bisogna fare l'aggiornamento software molto spesso. Nelle automobili no, non ancora, oppure è una cosa di cui noi non ci accorgiamo. So, sì, magari diventerà... No, normale. Diciamo che in effetti l'aggiornamento del software di un'auto invece è una cosa che viene fatta magari in corrispondenza di un tagliando, di un intervento di manutenzione ordinaria. Quando si va in officina, oltre al cambio dell'olio, c'è anche l'aggiornamento del firmware della centralina per eventuali miglioramenti, no? E l'eliminazione di qualche difetto che è stato, sì, sì, alla fine rilevato. Però possiamo immaginarci che nei prossimi anni sia una cosa che magari facciamo anche noi, cioè ci appare un pop-up e ci dice devi scaricare il nuovo software. Ma potrebbe essere che l'auto nasca con certe funzioni e poi evolva con funzioni aggiuntive che possono essere acquistate in maniera successiva, no? E quindi rese facilmente fruibili sulla base della scelta dell'automobilista che, sì, li ritiene, sì, importanti o meno. Cioè, tipo, vuoi un'accelerazione maggiore? Comprati questa bella, la prestazione a 50 euro. Certo, certo. Oppure vuoi che la funzione di cruise control attivo sia fatta in modo più rapido e semplice nell'utilizzo, perché la puoi parametrizzare in un certo modo, ecco, ti do un'app che ti consente di fruire in maniera nuova di una funzione di base che tu hai acquistato. Sì. Apriamo il capitolo dialogo a distanza, perché questa cosa potrebbe essere fatta addirittura a distanza, cioè la casa automobilistica potrebbe decidere di fare alcuni aggiornamenti software. Oggi ancora è un'operazione un po' complicata, tant'è che sappiamo che quando ci sono i grandi richiami, anche in queste settimane stiamo discutendo di questo richiamo di Volkswagen, bisogna andare in officina. Possiamo pensare a un futuro invece anche abbastanza vicino in cui tutte queste operazioni straordinarie o ordinarie che siano vengono fatte a distanza? Assolutamente sì, l'auto connessa diciamo che ormai è una realtà. Ecco, un'altra cosa che Texa fa è una scatola nera che a noi piace chiamare 2.0, perché oltre a risolvere il problema dell'incidente apre ancora una volta una connessione con i sistemi elettronici di bordo, per cui con questa scatola nera noi di fatto abbiamo messo in rete l'auto aprendo un canale di comunicazione attraverso il quale può essere veicolato di tutto: l'aggiornamento per risolvere un problema, la comunicazione con l'autista, il monitoraggio del funzionamento dell'auto che può essere utilizzato dal gestore di una flotta, sì, e tutta una serie di funzionalità legate anche alle tecniche e agli argomenti più adesso più comuni, tipo il car sharing e il carpooling. Perché l'auto connessa apre, abilita tutti questi scenari. Certo. Sono sicuri questi sistemi? Perché ogni tanto c'è qualche hacker che dice: ah, vi faccio vedere che riesco a prendere il controllo dell'auto. Questa è una cosa a cui noi abbiamo dato molta importanza e abbiamo da sempre seguito e perseguito delle logiche di sicurezza importanti. Cioè, abbiamo dedicato del tempo a questa cosa in modo che tutto sia crittografato. Dopo è chiaro. La sicurezza al 100% non esiste, però chiaramente nel settore automotive questo è un settore particolarmente sensibile, per cui bisognerà cercare di trovare sistemi molto sicuri. Io immagino che nell'industria, però te lo chiedo, nell'industria automobilistica ci sia un dialogo e un'attenzione particolare a questo tema. Assolutamente, assolutamente. Noi lavoriamo con diversi costruttori fornendo anche delle soluzioni proprio realizzate per loro, e abbiamo potuto vivere in prima persona l'attenzione che viene posta su queste tematiche e la qualità delle tecnologie algoritmiche applicate a questo tipo controllo. Tu credi che, visto che il ruolo del software sull'automobile è sempre più importante, chi è bravo a fare software, quindi tipo quelli che stanno in Silicon Valley, queste grandi aziende, avranno effettivamente un ruolo nel mondo dell'automobile? Perché c'è chi dice, entrare in questo settore è comunque complicato, perché insomma un conto è fare un software, un conto è fare un'automobile, però se il software diventa sempre più importante... Direi proprio di sì, nel senso che io vedo l'auto come un sistema complesso, dotato di una serie di informazioni che possono essere elaborate e unite tra di loro per ottenere dei risultati che poi magari all'inizio non erano neanche pensati. Faccio un esempio fra tutti, forse il più strano e interessante. Combinando i dati del GPS, che fa parte del sistema di navigazione, con il sistema di sospensioni elettroniche del veicolo, è possibile, per esempio, memorizzare un percorso stradale, fare in modo che l'auto si ricordi di quando c'è un dosso o un avvallamento, e la macchina impara a riconoscere la strada e si modifica il settaggio, no, delle sospensioni e dell'assetto per affrontare al meglio quel percorso. Questa è una cosa che può essere realizzata mettendo insieme degli elementi e dei dati che anche un programmatore può, nella sua logica, no? Raccogliere. Quindi si aprono degli scenari che possono essere popolati da programmatori che riescono con l'inventiva a mettere insieme degli elementi che sembrano lontani tra loro, certo, che possono trovare un punto di contatto interessante. Molto interessante. Immagino che di esempi del genere se ne possano fare tanti, cioè di come usando il software e mettendo a fattor comune tutti i sensori che ormai sono a bordo di un'automobile possono... Interessante. Sì, questa è una cosa che anche per la sicurezza mi veniva in mente il fatto che è teoricamente già possibile fare in modo che un veicolo industriale, quindi un camion di quelli che oggi corrono con prestazioni molto, molto importanti per strada e in autostrada, possa, prima di entrare in un tunnel, comunicare a una centrale che governa il controllo del tunnel la sua situazione di funzionamento legata ai sistemi di sicurezza, in modo da garantire che affronterà quel tunnel senza nessun tipo di criticità. Perché magari ci sono alcuni problemi latenti che potrebbero scattare, che ne so, dopo un chilometro. Esatto, no? Esatto. Quindi, che normalmente non danno problemi, ma in una galleria invece possono creare... A proposito di questo tema, si riesce già oggi, e come e quanto, a fare analisi predittiva, cioè a prevedere che l'automobile, che ne so, fra una settimana mi si rompe? Sì, è una bella domanda, perché stiamo lavorando su questo tema ormai da un paio d'anni, proprio per il fatto che cominciamo ad avere una massa critica di dati che provengono dalle auto. E abbiamo potuto sperimentare con efficacia degli algoritmi che hanno saputo definire, ad esempio, anche solo i parametri normali e corretti di funzionamento di un motore. Cioè, faccio un esempio: quando da 100 modelli di auto uguali mi arrivano delle informazioni sulla temperatura del motore, io posso capire, come per l'uomo, qual è la temperatura caratteristica di quell'auto. perché tutte le auto si riportano a una temperatura precisa e quindi posso accorgermi quando una delle auto, diciamo così tra virgolette, ha la febbre, è influenzata. Quindi e questo mi dà subito un'idea che su quell'auto c'è potenzialmente un problema che sta per scatenarsi. E questo può essere risolto da un algoritmo, non da una presenza umana. È l'algoritmo che si accorge che quell'auto sta per ammalarsi, quindi bisogna avvisare chi la guida. E lo si fa già? Adesso abbiamo fatto la sperimentazione per dimostrare che tecnicamente è realizzabile. Non è ancora stato utilizzato commercialmente come argomento, ma... E non lo fa nessuno ancora sul mercato. No, non ancora. È una cosa su cui noi puntiamo decisamente proprio perché abbiamo avuto la possibilità di partire molto tempo fa e quindi siamo in grado di usare questa tecnica che potrebbe avere delle ricadute molto importanti per la sicurezza. Perché la diagnosi predittiva in una certa misura mi dà la possibilità proprio di eliminare eventuali guasti anche pericolosi. Quindi è una cosa su cui puntiamo decisamente. Molto bene, io ringrazio Emanuele Cavalli per essere stato con noi. Magari facciamo una seconda puntata presto, quando ci saranno anche delle novità. Perché io immagino che nei prossimi pochi anni succederà l'ira di Dio, come si dice, nel settore automotive. Concordi? Ah, assolutamente, perché non abbiamo toccato oggi il tema delle auto elettriche, della mobilità alternativa, no? Di questi oggetti che diventeranno d'uso comune e che potrebbero diventare una sorta di altro elemento che si avvicina e si connette con la casa, perché l'auto elettrica alla fine avrà anche queste caratteristiche. Sono auto che si guidano da sole, che noi useremo, le lasceremo fuori e andranno a parcheggiarsi da sole per poi ritornare da noi quando ne abbiamo bisogno. Sì, sì, diciamo che i due temi sono fortemente connessi, cioè lo sviluppo della mobilità elettrica e dell'auto a guida autonoma sono due temi che vanno avanti parallelamente, ma convergono sempre di più. Grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, grazie ancora. Allora, dopo questa scorpacciata di software nelle automobili, parliamo sempre di automobili, ma di un servizio che molti italiani stanno utilizzando. Parliamo di ride sharing ed è con noi Olivier Bremer, che è General Manager per l'Italia e la Germania di BlaBlaCar. Benvenuto. Grazie. Diciamo subito che cos'è BlaBlaCar per chi non lo sa, anche se da un po' di tempo, da qualche anno, esistete anche in Italia. Sì, BlaBlaCar è una piattaforma online di passaggi in auto, quindi se io sono conducente e faccio dei viaggi lunghi in macchina, ho dei posti liberi, li posso mettere a disposizione su BlaBlaCar e trovare dei passeggeri che viaggiano con me e contribuiscono alle spese di benzina e pedaggio. Quindi è un modo per risparmiare sui costi del viaggio, ma anche un modo per socializzare. Sì, è diciamo un modo per condividere alcune cose, per questo lo inseriamo all'interno del grande fenomeno della sharing economy, giusto? Esatto, sì, si condividono le spese, appunto, è forse un esempio molto puro di sharing economy, perché appunto è un modo per condividere proprio delle spese molto chiare che sono, cioè si applicano a ogni viaggio, perché benzina e pedaggio li paghi sempre, e quindi appunto queste spese vengono condivise, ma in più si condivide l'esperienza del viaggiare insieme, del conoscere nuove persone. Quindi non si guadagna? Non è una cosa per guadagnare soldi. Assolutamente no. Quindi non bisogna pagare tasse poi, no, su quello che è. No, perché è un contributo alle spese di benzina e pedaggio. Sì. Quindi, se uno fa un po' il furbo e quindi cerca di... magari fa un viaggio ripetutamente per quasi guadagnare, cosa succede? Allora, innanzitutto i nostri prezzi sono bloccati. Quindi noi suggeriamo al conducente un prezzo da chiedere a ciascun passeggero. Lui lo può alzare, ma al massimo del 50%, e dopodiché è bloccato proprio dalla piattaforma. E quindi già con i prezzi che abbiamo noi... L'algoritmo fa in modo che non possa trasformarsi. Esatto, e comunque noi stiamo molto attenti, ovviamente monitoriamo anche quello che succede sulla piattaforma, e se vediamo effettivamente delle attività un po' sì, sospette, tipo un utente che viaggia molto più del normale, sì, tutti i giorni Milano-Brescia è un po' sospetto. Beh, però vabbè, potrebbe succedere. Milano-Brescia sì, però se uno fa tutti i giorni Milano-Napoli magari è un po' più... Sì, un po' più sospetto. Sì. Senti, noi ti abbiamo invitato per vari motivi. Anche perché succederà qualcosa dalla prossima settimana, poi lo raccontiamo, ma anche avete ricevuto appena 200 milioni di euro, che sono un sacco di soldi, per farci che cosa? Sì, sono 200 milioni di dollari, quindi un po' meno, dollari, però dollari, comunque rimane, sì, rimane una grossa la moneta. sì, beh, di obiettivi ne abbiamo tanti, quindi noi al momento siamo in 19 paesi, soprattutto in Europa, abbiamo l'India, il Messico, la Turchia, la Russia, che sono fuori. Però adesso puntiamo a tanti paesi in più, cioè abbiamo per esempio l'America Latina che è un continente molto promettente per quello che facciamo, anche in Asia oltre all'India ci sono tanti altri paesi dove vediamo che il mercato c'è, non ci sono ancora servizi di ride sharing di questo tipo, quindi sì, l'obiettivo è di lanciare dei nuovi mercati appunto con questo nuovo finanziamento, ma ovviamente rimane anche l'obiettivo di crescere nei mercati dove siamo adesso. Ci hai suggerito una cosa importante, questo si chiama ride sharing, da non confondere col car sharing, che è il servizio, esatto, che sì, c'è nelle città per, sì, prendere un'auto, esatto, invece, sì, in questo caso di ride. Quindi questi soldi vi servono per aprire nuovi mercati, perché effettivamente nei nuovi mercati voi non guadagnate nulla quando aprite, nei primi mesi o anni addirittura. Esatto, sì, in una prima fase lanciamo il servizio gratuitamente, l'idea è di avere meno barriere possibili. Quindi il pagamento tra passeggero e conducente avviene cash in macchina. Sì. Poi in una seconda fase introduciamo un modello di business che sicuramente non sarà lo stesso per tutti i mercati, cioè se penso all'America Latina probabilmente sarà diverso rispetto a quello che è qua in Europa, però finora nei mercati dove abbiamo lanciato appunto la prenotazione online è appunto il pagamento online che ci permette di avere degli utili. Adesso lo spieghiamo come funziona il vostro modello di business, perché molti italiani sono abituati mettersi d'accordo sul viaggio online e poi il pagamento avviene in automobile o comunque in un altro modo. In alcune aree del paese e in altre dalla prossima settimana invece viene già applicato il vostro modello di business. Come funziona? Sì, allora praticamente l'idea nasce dal fatto che il sistema che abbiamo attualmente, quindi pagamento cash, funziona bene all'inizio quando la community è relativamente piccola e gli utenti sono quelli diciamo più affini alla tecnologia, magari anche sono quelli più appassionati del servizio, quindi il servizio tende a essere più affidabile, però nel momento in cui diventa un servizio di massa, è quello che sta succedendo in Italia, dobbiamo intervenire e dettare un po' delle regole, no? Per fare in modo che possa continuare a crescere. Quindi l'idea di fondo della prenotazione online è che il passaggio viene prenotato in anticipo, viene pagato con carta di credito o con PayPal, e quindi il passeggero si impegna pagando a presentarsi puntuale all'appuntamento. Per il conducente questo è un grosso vantaggio, perché lui sa che effettivamente può fidarsi. Non ci sono delle sorprese. Non ci sono sorprese, si riduce il rischio di bidoni all'ultimo minuto. No? Questo vuol dire che se io offro un viaggio e dico per venire con me ti faccio pagare 10 euro come contributo spese, una parte ve la prendete voi. È il passeggero che paga una commissione in più rispetto ai 10 euro, quindi invece di 10 ne paga 11 per dire, e un euro va a BlaBlaCar. E voi guadagnate con questo. Esatto. È in generale, se noi guardiamo a tutti i mercati, il vostro unico modo di guadagnare soldi? Sì, noi abbiamo provato tanti modelli di business, come molte startup, no? Quindi si procede un po' per tentativi, quindi abbiamo provato con la pubblicità, abbiamo provato con degli accordi con le aziende, avevamo 200 aziende, no? Clienti a cui fornivamo servizi di ride sharing per i dipendenti, abbiamo provato una sorta di abbonamento per gli utenti più che usavano il servizio con più frequenza, sì, ma abbiamo visto che nessuno di questi modelli era sostenibile. E quindi alla fine il modello di business più che si è rivelato più interessante, perché portava il maggior valore aggiunto anche per la community, è proprio la prenotazione online. Dicevo, da lunedì, comunque dalla prossima settimana, succede qualcosa in Italia. Alcune zone sono già passate a questo nuovo servizio, altre verranno aggiunte, diciamo, alla zona in cui applicate. Cosa succede? Sì, per ora la prenotazione online è attiva sulle tratte tra Milano, il Piemonte, la Liguria e anche una parte della Toscana. Da lunedì l'attiveremo anche sulle tratte dal nord-ovest verso il nord-est, cioè in particolare Veneto e Friuli, dove ci sono alcune delle tratte più battute su BlaBlaCar, quindi da Milano-Veneto è in assoluto la tratta più frequentata su BlaBlaCar Italia. Ah, interessante. E appunto l'idea è quella di far passare in modo abbastanza rapido tutti i viaggi e la prenotazione online e vedere un po' quello che succede, raccogliere reazioni, vedere come reagiscono gli utenti, vedere se ci sono delle cose da migliorare e poi continuare il processo di insomma allargare il modello al resto del paese. Certo, diciamo in prospettiva poi quello sarà il sistema usato in tutta Italia. Esatto, sì, perché abbiamo visto che funziona molto bene in Francia, Spagna. Voi siete francesi, quindi in Francia è già attivo da tempo. In Francia è iniziato il primo test nel 2011, quindi abbiamo raccolto molte esperienze, abbiamo visto soprattutto che siamo passati, cioè abbiamo quintuplicato gli utenti da quando l'abbiamo introdotto, quindi effettivamente è un modo per rendere tutta la pratica del ride sharing più affidabile, più sicura e... Come un altro mezzo di trasporto, come un treno. Quanti sono gli utenti in Italia? Ma non abbiamo dati per paese. Avete, ma non li dite. Sì, non è così, non è sempre così semplice, perché molti utenti sono attivi in più paesi. Ah, ok. Però in tutto abbiamo 20 milioni di utenti. In questi 19 paesi. Sì. Quindi diciamo che potrebbero essere più di 1 milione in Italia. Potrebbero essere 2 milioni. Comunque non sono più di 20 milioni. Non sono più di 20 milioni, sono ovviamente molti di meno, però comunque l'Italia è uno dei mercati che va meglio. Sì. Senti, il fatto che bisognerà pagare con la carta di credito, secondo te può, visto che nell'e-commerce si dice spesso che la carta di credito è un vincolo, potrebbe essere un vincolo ad aggiungere nuovi utenti, o magari qualcuno scappa via, qualcuno degli utenti attuali? Sì, sicuramente cambierà il modo, la modalità di pagamento, quindi magari finora gli utenti non erano abituati ad avere con sé la carta di credito nel momento in cui prenotavano un passaggio, adesso sarà necessario, però effettivamente guardando un po' quello che succede nella mobilità, ormai la maggior parte dei biglietti, basti pensare ai voli low cost, vengono prenotati solo online, è impossibile fare altrimenti. Sì. Senti, tu pensi che, o magari ci state già pensando, in alcuni paesi state già facendo qualche esperimento, dal ride sharing potreste passare ad altro tipo di servizio, visto che nel mondo dei trasporti stanno succedendo cose incredibili, si sta effettivamente rivoluzionando il modo con cui vengono offerte nuove possibilità agli utenti. Pensiamo al car sharing, pensiamo ai servizi di taxi e servizi analoghi al taxi, e cioè bla bla bla. Ecco, in questo caso vale la pena dirlo, visto che stiamo parlando di bla bla car, no? Sì, è una domanda che ci viene fatta spesso, però in realtà la risposta magari è in realtà molto banale, ma siamo talmente all'inizio in quello che facciamo, cioè il ride sharing sulle lunghe distanze, così come viene fatto da BlaBlaCar, a parte che siamo gli unici praticamente al mondo a farlo in questa scala globale, però ha un potenziale talmente grande, se noi pensiamo alle decine di milioni di posti liberi che circolano ogni giorno solo in Italia, e lo moltiplichiamo per tutti i grandi mercati che ci sono su questo pianeta, cioè è un potenziale enorme, magari siamo al 10% di quello che possiamo raggiungere in Italia. Certo, e non abbiamo ancora di pensare ad altro, pensiamo sì, a questo. Sì, per il momento siamo focalizzati su questo, lo facciamo da tanti anni, funziona. Sì. Ti faccio una domanda, anche questa immagino sarà stata fatta tante volte, sulla fiducia, perché su internet dimostra che un sacco di cose si basano sulla fiducia, e tra gli utenti di internet c'è molta più fiducia di quello che uno potrebbe pensare. Perché uno dice, ma come? Io prenoto un viaggio da uno sconosciuto, che poi è sconosciuto fino ad un certo punto, perché a voi è noto, nel senso che avete il numero di telefono, avete anche la carta d'identità o solo il numero di telefono? Verifichiamo il numero di telefono, però ovviamente abbiamo anche altre informazioni, sappiamo da dove si è connesso e così via, quindi... Sì. Tutte le attività su internet sono tracciate, no? Diciamo che comunque insomma bisogna fidarsi, perché uno dice, vabbè, io vado in automobile con una persona che non conosco, chissà chi è questo, poi in realtà tutto questo timore non c'è tra gli utenti. Sì, perché comunque abbiamo tanti strumenti, no? Anche l'utente stesso ha tanti strumenti per informarsi sull'altra persona, cioè basti pensare ai feedback, che sono probabilmente lo strumento più utilizzato. Io posso leggere quello che altre persone hanno scritto su questa persona, cioè è lo stesso principio di eBay o TripAdvisor, no? Che io mi posso informare prima e in base a quello mi faccio un'idea della persona con cui condividerò il viaggio, e allo stesso tempo so che che un utente che ha già molti feedback ovviamente è incentivato a comportarsi bene perché ne vuole ricevere altri positivi. Certo, poi ogni tanto ci sarà anche qualche pasticcio forse. Ma in realtà abbiamo visto, abbiamo fatto recentemente un sondaggio nella nostra community, abbiamo visto che tendenzialmente viaggiare con altre persone in macchina responsabilizza le persone, quindi si tende a rispettare di più le regole del codice della strada, perché io che magari carico 3 sconosciuti, sì, mi sento responsabile, quindi rispetto i limiti, mi metto la cintura, mi fermo ogni 2 ore e così via. Certo, a proposito di responsabilità, se succede qualcosa, un incidente, di chi è la responsabilità? Ma lì è come viaggiare con familiari o amici, cioè il principio è lo stesso, c'è una copertura assicurativa, poi ovviamente dipende dalla dinamica dell'incidente, certo. Di chi è la responsabilità, ma si è coperti dall'assicurazione. Senti, a proposito di nuovi territori che vengono aggiunti al vostro modello di business, quando pensi che sarà esteso a tutta Italia? Ma probabilmente sarà l'anno prossimo, non sappiamo ancora esattamente le date, perché dipende molto da quali sono le reazioni degli utenti e dalle cose che ci sono da sistemare. Sì. Però ci vorrà ancora un po' di tempo. Voi come fate a farvi conoscere? Che cosa usate? Pubblicità tradizionale oppure... Ma noi siamo partiti facendo solo online, quindi praticamente solo performance marketing all'inizio, e ha funzionato molto bene nella fase iniziale. Ormai siamo arrivati in Italia in una fase dove facciamo anche offline, quindi abbiamo fatto campagne radio, per esempio. Ah sì? E abbiamo provato la TV un po' di volte e probabilmente continueremo a scalare anche questi canali. Sì. Ma io proprio la TV non la farei, farei solo la radio. Senti, per chi, per i nostri ascoltatori, ma anche per me, diciamo, performance marketing, cosa spieghiamo come funziona? Sì, performance marketing, un esempio possono essere gli annunci su Google, quindi io cerco ride sharing e trovo un annuncio di BlaBlaCar, oppure cerco... Pago solo se mi cliccano. Se mi clicco e posso misurare, cioè io azienda posso misurare esattamente quanto mi costa, sì, no, questa campagna. E mentre sulla radio sì, è un po' più difficile misurare gli effetti. Certo, certo. Senti, ti faccio un'ultima domanda per capire quanto c'è di tecnologia dietro a BlaBlaCar e quanto invece sono necessarie le persone. Quanti siete per capire poi appunto come funziona questo sistema? Perché uno potrebbe pensare, beh, è una piattaforma che mette in connessione il pilota con i passeggeri, fa tutta la piattaforma, voi non dovete fare niente. Beh, anche la piattaforma non si costruisce da sola, quindi cioè, noi siamo 400. Però una volta fatta avanti da sola, no? Ma non è così, non semplice. È sempre così, certo. Vabbè. Cioè, comunque siamo 400 persone nel team, di cui sì, ormai quasi 100 si occupano proprio dello sviluppo del sito e dell'app. Infatti spesso ci viene chiesto, sì, ma lo fate la sera, nel weekend, state lì che programmate? Beh, no, c'è molto lavoro hobby, dietro, no. Sì. E per mantenere una piattaforma con appunto 20 milioni di utenti che la usano e 10 milioni che la usano effettivamente ogni trimestre, sì, vuol dire avere dietro un'infrastruttura potente che va gestita, che va mantenuta, che va migliorata ogni giorno, e anche delle nuove funzionalità, come per esempio come può essere la prenotazione online, ovviamente richiede molto lavoro. Certo, sono più le persone che fanno tutto sullo smartphone o vince il desktop? In Italia vince lo smartphone, in altri paesi è diverso, però l'Italia è molto mobile. Tipo la Germania, visto che tu sei responsabile anche della Germania. In Germania è un po' meno, sarà più o meno 50-50. Bene, io ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro e in bocca al lupo. Crepi. Chiudiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato o ascoltato in streaming questa versione podcast in MP3 di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Buona corsa a chi corre, chi fa sport con 2024 nelle orecchie. Torniamo la prossima settimana registreremo una parte della nostra puntata da una fiera che si chiama EMU, dove si trovano delle straordinarie e bellissime macchine robotizzate che servono per costruire prodotti, quindi faremo una parte della puntata sul mondo della robotica. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.